Un'impressione indescrivibile. Sono stati da me due uomini parecchio, cercano di tarsi avanti, ciascuno vuole essere il primo. Non li conosco, sono molto tristi. Io, chi siete? Essi, i dimenticati. Io, nessuno è dimenticato, perché nella Santa Messa si prega per tutti. Allora uno si avvicinò e mi sussurrò all'orecchio, forse ha detto mille, ma non lo posso dire con certezza. Poi vidi un fuoco ed essi sparirono. Una volta ero ancora sveglia, quando sentii il mio letto sollevarsi in aria e poi cadere con un crack di nuovo sul pavimento. Non riuscii ad accendere la luce, ed ecco qualche cosa mi prese per la gola in modo tale che credetti di soffocare. Ho avuto una paura spaventosa, incominciai a battere attorno a me, ma non trovai niente. Fu una cosa tremenda. Dovetti subire questa cosa per 7 volte, poi vidi una donna, che faceva orrore. Io, sei stata tu a tormentarmi sempre in questo modo? Perché? Lei, perché eri mia? Nota. Sembra che questa donna abbia un solo sentimento, invidia. In lei tutto è invidia. Io, perché? Non ti ho ancora fatto niente. Lei, tu mi accechi. Io, ma io voglio aiutarti. Allora essa si gettò furiosa contro di me, tanto che io gridai, in nome di Gesù, vattene. E lei disparve. Ho la brutta sensazione che essa sia stata molto cattiva, diversa da quelle venute finora. Ciò mi mette uno spavento indicibile e prego, che essa non venga più. Essa mi ha fatto un'impressione che non si può descrivere, devo continuamente pensare a lei.